Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1866, l'Italia si allea con la Prussia contro l'Austria. I venti di guerra soffiano sempre più forte verso est, verso la frontiera con il Veneto. L'8 aprile l'Italia stretta un'alleanza con la Prussia in funzione chiaramente anti-austriaca. E dire che solo qualche mese fa, ora siamo in grado di rivelarlo, l'Italia aveva lanciato un'iniziativa diplomatica segreta nella direzione opposta. Il presidente del Consiglio, la Marmora, aveva provato ad allettare Vienna con uno scambio commerciale. La proposta era niente di meno che l'acquisto del Veneto per una forte somma di denaro, ma pare che sia stato lo stesso imperatore Francesco Giuseppe a dire no. Così la Marmora si è rivolto appunto alla Prussia, che da mesi lo corteggiava, l'inviato a Berlino Paolo Piacenza. A Berlino l'intesa è stata siglata e il governo prussiano si muove a passi decisi verso la mobilitazione militare. L'obiettivo del primo ministro Otto von Bismarck è di porre fine all'influenza austriaca sulla Germania. Per questo il cancelliere ha cercato un'intesa con Francia e Italia fin dall'anno scorso. La prima proposta alla Marmora risale a luglio del 1865, quando il governo di Berlino ha fatto chiedere da un suo diplomatico, Karl von Usedom, quale atteggiamento avrebbe avuto il governo italiano in caso di conflitto austro-prussiano. La Marmora ha prudentemente risposto di non poter prendere impegni senza conoscere le intenzioni di Napoleone III. A questo punto l'ambasciatore italiano a Parigi, Costantino Nigra, si è informato e la Francia ha replicato che sarebbe stata neutrale e comunque non sfavorevole a un intervento dell'Italia a fianco della Prussia. Nonostante la convenzione di Geithner con l'Austria, Bismarck ha proseguito sulla via della guerra, ha strappato la neutralità di Russia e Inghilterra a ottobre, a Biarritz ha ottenuto un'intesa con Napoleone III sulla neutralità, ha quindi provocato un peggioramento delle relazioni con Vienna. A fine febbraio il Consiglio della Corona prussiano ha deciso per una guerra con l'Austria in alleanza con l'Italia. A trattare la cosa per il governo alla Marmora è stato il generale Giuseppe Govone, che ha importanti funzioni di intelligence. Lui stesso ci ha rivelato che all'inizio non era molto convinto delle proposte prussiane, poi però è fallita una nuova mediazione francese per la cessione pacifica del Veneto e la trattativa è ripartita. A quel punto infatti è stata la stessa Francia a spingere per un'intesa. L'accordo è stato siglato dall'ambasciatore a Berlino Giulio De Barral dopo il via libera di La Marmora. Ecco i primi articoli del trattato. Articolo 1. Vi sarà amicizia e alleanza fra Sua Maestà il Re d'Italia Vittorio Emanuele II e Sua Maestà il Re di Prussia Guglielmo I. Articolo 2. Se i negoziati che Sua Maestà il Re di Prussia sta per aprire con altri governi tedeschi, in virtù di una riforma della Costituzione federale conforme ai bisogni della nazione germanica, non riuscissero e Sua Maestà, per conseguenza, fosse messa in condizione di prendere le armi per far prevalere le sue proposte, Sua Maestà, il Re d'Italia, dopo l'iniziativa presa dalla Prussia, appena ne sarà informato, in virtù della presente convenzione, dichiarerà guerra all'Austria. Dunque l'intesa prevede l'intervento italiano in caso di attacco austriaco verso la Prussia, mentre non impegna Berlino, ma pare che Bismarck abbia assicurato il suo impegno di fatto e anche la stessa Francia ha assicurato all'Italia che non sarebbe lasciata sola se l'Austria l'aggredisse. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.